introdotti come sempre dalle note di Monsignor Marco Frisina, l'inno ufficiale scritto per il centenario di San Pio X. Beppi Nostro, santo di tutti, come abbiamo intitolato questa rubrica. Tra pochi giorni c'è un grande appuntamento, doppio appuntamento, un convegno di studi sulle riforme di San Pio X, la riforma del cattolicesimo. Pensiamo a quello che sta iniziando a fare Papa Francesco in questi giorni. Noi facciamo un salto di 100 anni indietro e poco più per capire cosa successe all'epoca. Una figura importante che si cerca di riscoprire appunto in questo periodo. Sottolineiamo ed evidenziamo altri aspetti appunto del ruolo e della figura del pontefice Pio X con un'altra esperta, la professoressa Paola Gallo, che è musicologa, studiosa appunto di storia della musica al Collegio Pio X di Treviso. Inserisco la figura di Giuseppe Sarto all'interno del Novecento, fino Ottocento, primi Novecento, da un punto di vista storico, nel senso che il Papa ha vissuto una realtà di passaggio molto interessante e l'ha vissuta personalmente anche in maniera molto personale, nel senso che era l'origine del Papa permette di valutare la figura e poi anche le azioni all'interno della storia di questa figura. Le sue origini contadine sono determinanti proprio per l'inserimento nella fine dell'Ottocento, poiché dopo il passaggio risorgimentale, diciamo storico, il Papa si trova a dover affrontare una situazione politica e anche economica difficile. È chiaro che si muove, da un punto di vista cristiano, seguendo la praticità, cioè tutto quello che il Papa fa per poter migliorare lo stato sociale, lo stato economico è determinante e lo vediamo perché per il suo interessamento diretto. È chiaro che tutto questo lo porterà anche a studiare molto e a confrontarsi con una cultura del periodo cosiddetto del decadentismo che era strettamente coinvolta in questo movimento sociale ed economico. Il Papa Giuseppe Sarto ha una cultura molto vasta e questa cultura molto vasta gli permette per esempio di leggere tutti i libri per esempio in italiano e in francese, e il francese è una lingua per esempio che conosce molto bene, che parla e che gli permetterà appunto di affrontare anche delle difficoltà diciamo storiche del momento. L'attenzione all'aspetto culturale è determinante nell'ambito sì, del suo mandato, diciamo così, perché? Perché il Papa ha molti amici, per esempio artisti, vede l'arte e la cultura come un momento sociologico determinante per poter portare alla gente anche più bisognosa, diciamo, quello che potrebbe essere la bellezza dell'arte e la bellezza in genere del conoscere. Cioè, dipende dal suo modo di pensare una visione nuova della cristianità culturale. E questo è interessantissimo, perché il Papa, per esempio, valuta attentamente quello che possono essere le particolari attenzioni, diciamo, ai beni culturali. Cioè, tutto quello che deve essere bello e che può essere bello perché l'arte pone di fronte l'uomo delle bellezze, devono essere anche didascaliche queste bellezze, cioè devono porgere ai cristiani una forma di educazione che permetta loro di assimilare ciò che è il dono di Dio, come lo considera lui, la bellezza. Quindi, per esempio, è molto interessante la sua attenzione al cambiamento, per esempio, della Pinacoteca Vaticana, nel senso che a un certo punto si accorge, passeggiando nei momenti di riposo, che le collezioni vaticane dovevano essere proposte al pubblico in un modo diverso, dovevano essere restaurate e soprattutto dovevano essere portate alla quanta più gente possibile. Ed ecco quindi che si interessa in maniera particolare, anche molto pratica, perché per esempio rivede, non so, la struttura delle collezioni e rivede anche poi, in seguito, quelle che possono essere le nuove strutture delle chiese. Strutture di tipo architettonico, cioè l'architettura che le chiese potevano avere e che potevano quindi offrire come, potevano offrirsi come bellezze da vedere. Una cosa molto interessante di Papa Sarto è anche l'attenzione che pone ai beni culturali di tipo musicologico, e qui rientra in maniera particolare la mia presenza, poiché sono una storica della musica e una musicologa. E qui è anche molto importante il fatto che Papa Sarto conoscesse in maniera molto amichevole un grandissimo della musica sacra del tempo, che fu Lorenzo Perosi. Lorenzo Perosi è un tramite determinante per il Papa, poiché a monte il Papa aveva studiato musica, conosceva la musica molto bene, ma attraverso Lorenzo Perosi venne poi a contatto con una modernità della musica e anche con una riforma della musica. Scrisse addirittura in moto proprio, che è un documento determinante per la riforma appunto dell'epoca, poiché si rifà a un studio, diciamo, della storia della musica che aveva già avuto in passato una determinante rivalutazione e conoscenza nel Cinquecento. Cosa succede? Succede che nel Novecento, nei primi del Novecento, proprio grazie a Lorenzo Perosi e a Papa Sarto, vengono recuperati i capolavori del Cinquecento romano, soprattutto Palestrina. E quindi la bellezza, la sintesi e l'opera di questo grande musicista vengono rivalutati e proposti. Molto spesso Giuseppe Sarto è stato tacciato di essere un papa conservatore. In realtà il suo studio, diciamo, della musica, del canto gregoriano oppure della polifonia del Cinquecento è invece, si presenta al mondo dell'epoca come una grande riforma talmente importante che avrà ripercussioni anche oltre Alpe, soprattutto in Francia, per esempio, negli Stati Uniti. Quindi grandi musicisti si affiancarono a questa riforma, non solo in ambito di musica sacra, ma anche nell'ambito della musica profana, e addirittura portarono questa riforma, questi scritti, questi documenti e anche queste valutazioni, diciamo, portarono alla nascita di quello che nel Novecento musicale si chiamerà neoclassicismo. Ringraziamo la professoressa Paola Gallo, musicologa, studiosa di storia della musica, anche della figura dell'opera di Papa Pio X. Tra pochi giorni, giovedì 24 e venerdì 25, c'è il grande appuntamento a Ca' dei Carraresi a Treviso il primo giorno, e al Marcianum presso la Basilica della Salute a Venezia il giorno dopo, per il convegno di studi su Pio X e le sue riforme. Evento che potrete seguire in diretta integrale in streaming tramite il sito di Blu Radio Veneto e tramite il sito centenariopiodecimo.it.